Voci in scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola per un nuovo appuntamento con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti dello spettacolo. La voce in scena di oggi è quella di un cantautore italiano dalla lunghissima carriera. È nato a Domodossola nel 1955. Studia nella sua città fino alle scuole superiori, poi si trasferisce a Genova per iscriversi alla facoltà di medicina e chirurgia. In quegli anni comincia a suonare il piano e a comporre canzoni. Dopo pochi esami si ritira dagli studi universitari e si sposta a Roma, dove si mantiene lavorando come grafico, ma non riesce a introdursi nell'ambiente musicale e ci prova in seguito a Milano, dove riesce a entrare nell'etichetta Polygram, grazie ai discografici e talent scout Alberto Salerno, Mara Maionchi e Claudio Fabi. Nel 1979 il primo album che porta il suo nome e nel quale è accompagnato dalla premiata Forneria Marconi. Nell'album sono contenuti pezzi che passano alla storia della musica leggera italiana, come La sedia di Lillà, come A voi romani e Milano e Vincenzo, questi ultimi brani che susciteranno polemiche per anni. La sua rabbia, spiegherà poi, non era diretta contro la popolazione di Roma, ma contro le forme di potere e le burocrazie accentrate della capitale. Nel 1979 apre il concerto di James Brown allo Stadio Braglia di Modena. Dopo una breve esperienza nel cinema, dove interpreta una piccola parte in Liquirizia di Salvatore Samperi, esce il suo secondo album, Tra demonio e santità. Ma il terzo album, La grande grotta, del 1981, a consacrarlo al grande successo commerciale. Registrato con la collaborazione di grandi musicisti americani, contiene il singolo Settembre, che resta in testa per molte settimane nella classifica di vendita italiana. Nel 1982 esce Fragole infinite. Nelle tracce contenute si trova Neve, in duetto con Rossana Casale, all'epoca sua fidanzata. Il suo successo commerciale in seguito cala, ma lui continua a lavorare tra Italia e Stati Uniti. Torna alla ribalta televisiva nel 2006 partecipando alla terza edizione del talent show Music Farm. Nel 2014, 9 anni dopo l'ultimo disco, pubblica Do l'anima, album di inediti. Nel 2016 l'EP Con te. La voce in scena di oggi è Alberto Fortis. Guarda, Con te è veramente un progetto che va a fissare un momento importantissimo, perché io lo ritengo proprio un punto di ripartenza, soprattutto per ciò che riguarda l'aspetto del stilistico della produzione, delle sonorità. E hai voluto rivestire dei brani. Sì, perché ci sono degli inediti e poi ci sono invece dei brani che vengono dal progetto immediatamente precedente, Do l'anima, che ricordo comunque un progetto meraviglioso, anche quello prodotto a quattro mani col maestro Lucio Violino Fabbri. Ma questo era proprio per in qualche modo soddisfare la mia esigenza di, si sa che la musica è una forma in continua evoluzione, quindi delle sonorità, quindi di un certo tipo di attualità con cui siamo arrivati proprio invece con il progetto Con te. Partiamo dall'inedito, ha un testo molto particolare, è un testo che vive una vita che non hai vissuto. In pratica sì, perché tutto Con te è permeato da questo esternare in maniera ancora più forte, anche più semplice di quello che io faccio in genere, perché in genere mi piace naturalmente molto riferire delle esperienze e delle mie riflessioni personali, però sempre sull'esterno, sul sociale, sul collettivo. In Con te invece ho affondato molto sul dichiarare cose che sono anche abbastanza private. Poi si parla d'amore, in questo caso, come hai detto tu, di una mia vita non vissuta, cioè di avere una famiglia e un figlio. Molti delle persone, degli artisti, pagano un po' questo prezzo, perché la musa dell'arte ti richiede, e poi insomma fa parte un po' la vita personale, però questa è dedicata proprio alla volontà e al desiderio di una famiglia e di un figlio. Non a caso ho adottato un bimbo in India. Con te sarà diverso, con te io posso dire, domani faccio un figlio, mi piace da morire, con te posso versare le lacrime d'amore, con te posso svegliarmi nella notte al Signore. Nel cuore, se tanto mi dà tanto, vai forte da impazzire, tesoro, non sai quanto. Con te sarò felice, e se gli altri non mi piace, correggerò il mio verbo, fin quando gli altri tace. Il mondo della musica, come l'hai visto cambiare, e che impressione ti fa adesso? Quello è stato uno dei morphing più forti di questi ultimi 20 anni. Direi che proprio il web rappresenta il libero arbitrio di oggi, cioè sdogana le meraviglie, sdogana le cose orribili, anche se viviamo nell'era dei talent, indiscutibilmente, e se delle cose buone escono anche dai talent, ma la mentalità, la piattaforma è quella di aspettarsi in un anno e mezzo di essere dalle stalle alle stelle. Sì, ogni tanto succede, ma poi è piuttosto effimera. Quindi l'augurio è di avere coraggio, denaro e anche intendimenti per curare un po' di più le carriere. Il talent tu l'hai provato? Che ricordo ne hai? Tu hai fatto un music farm. È stata un'avventura soprattutto forte dal punto di vista umano. Io pensavo che ci fossero molte cose in qualche modo pilotate o finte rispetto a quello che si vedeva da casa. Invece in realtà era tutto vero. Abbiamo fatto anche una scommessa di qualità. Avevamo intuito che c'era una grande forza, di comunicazione mediatica in questo format. Abbiamo detto: perché non andare e tentare un'avventura che ci appartiene. In questi giorni stiamo festeggiando il 60° compleanno, anche se in realtà lui è mancato da molto tempo, di Andrea Pazienza. Hai lavorato con Andrea Pazienza? Io ho avuto il grande onore di essere uno dei pochi a cui Andrea ha dedicato un suo videoclip di animazione. Soltanto due artisti, Beatles e quanto mi riguarda, con la canzone Milano e Vincenzo. Quindi è stato uno delle medaglie della mia carriera. Nei deserti immensità, cimenta te intorno al mare. Tu lo sai che verrò, tu lo sai che verrò, e parlava a noi, tu lo sai che verrò, tu lo sai. Quanto amore hai chiesto già, l'hai chiesto in prestito dai segni. Voglio tornare al tuo EP, perché c'è il brano dedicato a Papa Francesco. Sì, e torniamo alla volontà che ho avuto in tutto il progetto di Con Te di esternare molto di più quello che erano proprio delle mie corde personali. Chiaramente con grande fascinazione nei confronti di Papa Francesco, che in qualche modo, secondo me, ha ripreso un po' una linea tracciata da Papa Carlo Wojtyła, con questa forza di comunicazione nei confronti della gente. Io adoro tutte le persone che, quando vanno a rappresentare delle figure di importanza così strepitosa, riescono in qualche modo a scalfire il dogma e a parlare con le persone. Il dogma è ciò che nella storia è ciò che ha creato l'assurdo, probabilmente il vero peccato originale, che è quello di avere la religione come madre delle guerre. Parlando di queste cose, chiaramente con un esperto in materia, che è Don Gabriele Corini, io gli ho fatto sentire questo al di là. Lui l'ha proprio metabolizzata e poco tempo dopo è arrivato con delle riflessioni fatte direttamente sulla figura di Papa Francesco. Quella sera nella piazza blu sei apparso bianco a tutti noi. Ora sei Francesco e da lassù hai detto: pregate per me e io prego per voi. Perché al di là della fine, al di là anche di lei, al di là a un confine, l'al di là è quel che sei. Il tuo sguardo sull'umanità, le periferie che porti in te. Adesso cosa desideri, Alberto? Quali sono i tuoi desideri? La musica e questo lavoro diventano un amante forte e anche molto gelosa. Prima cosa dei risultati su quello, dei risultati di condivisione, che sono la gioia di un artista. Il sogno del cassetto che ancora c'è, su cui sto lavorando da un po' di tempo, è un musical. E poi, vabbè, io allora rimando anche a Con te, e prima o poi chissà di trovare la vera compagna della vita. Che meraviglia! Grazie Alberto. Grazie a voi. Ed è tutto per l'appuntamento di oggi con Voci in Scena. Con noi c'era Alberto Fortis. Ancora un saluto da Marta Cagnola.